Questo è lo Zoo di 105. Perché non mi chiami quando sei in diretta? Di la verità, tu sei un pazzo stalker. Perché vengo lì e ti stacco le canne della gola. Ma cosa sei? Adesso hai imparato una parola nuova, continui a ripeterla, via, dai, le canne della gola. Zitto quando parlo io. Sono un organo. Stai zitto. Mi vento con la tua pelle, maledetta merda. Il programma è mio. Stai zitto. Il programma è mio, decido io. Ma non ci credo, ha urlato veramente per la forza di Grey School.